che mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene. Ma dammi una lametta che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' peccato, ma che godoria. Mi gioco tutto con candore e furia. E allora stop! Senti com'è fatta questa lametta. Da destra verso il centro, zap. Dall'alto verso il basso, zit. Che gusto, che innesto. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Senti come taglia questa canaglia. Ma che puntiglia. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Vivere in fretta, prendere al volo, tutto conviene. Dammi, dammi, dammi, dammi, dammi una lametta che mi taglio le vene. Mi faccio meno male del trapianto del rene. Mi voglio bene, sì, mi voglio tanto bene. Ma dammi una lametta che, dammi una lametta che, dammi una lametta che mi sgaro le vene.